Una Palma d'Oro a Cannes, due David di Donatello, recitò anche a Hollywood e tornò in Italia dopo aver rifiutato Barbarella. Putin all'attacco, vogliono impagliare l'orso russo e l'espansione della NATO è un nuovo muro, nuovi segnali di debolezza del rublo. Crollato il muro di Cuba con il contributo determinante del Vaticano. Intervista al portavoce di Giovanni Paolo II, Navarro Valls, che racconta i suoi colloqui con Castro. L'ovulo umano non fecondato non è classificabile come embrione, quindi brevettabile, lo stabilisce la Corte di Giustizia europea. In cima alla lista di Nature delle 10 personalità scientifiche dell'anno c'è un italiano, il direttore di volo della sonda Rosetta, lo ospiteremo tra poco. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti sono sempre quelli, effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, oppure il numero di SMS, se volete scriverci durante la trasmissione, è il 349-238-6666. Apriamo con la politica, apriamo con le parole finalmente chiare del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in merito alla fine del suo mandato. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Capo dello Stato ancora al centro dell'attenzione. Dai tempi dell'annunciato passo indietro che farà Napolitano dipendono infatti molti aspetti della legislatura, dalla legge elettorale alle altre riforme. Ecco perché ogni riferimento diventa importante. E questa mattina il Presidente della Repubblica, incontrando il corpo diplomatico, ha confermato che le sue dimissioni sono imminenti. Ascoltiamo allora questo passaggio. La prossima fine di questo anno 2014 e l'imminente conclusione del mio mandato presidenziale inevitabilmente ci portano a svolgere alcune considerazioni sul periodo complesso e travagliato che stanno attraversando l'Italia, l'Europa e il mondo. E per imminente, Simone, fonti del Quirinale confermano che ci si debba riferire, come già negli ultimi tempi, alla fine del semestre europeo a guida italiana e quindi al 13 gennaio. Da Napolitano intanto nuovo richiamo perché si vada avanti con le riforme varate dal governo Renzi, un percorso questo che non può essere fermato anche secondo la Presidente della Camera Boldrini. Sulla legge elettorale intanto annuncio del Ministro Boschi, sui tempi c'è intesa con Forza Italia per chiudere prima dell'elezione del nuovo Capo dello Stato. Vincenzo, così su riforme e Quirinale, dall'altra parte c'è la questione della legge di stabilità, pare che sia in arrivo un maxi emendamento del governo. Sì, è così, manovra economica che arriva in aula al Senato senza che si sia chiuso l'iter in commissione bilancio, questo per una frenata nei lavori nelle ultime 24 ore, da qui la necessità, come anticipavi, che le modifiche apportate siano recepite attraverso un maxi emendamento che dovrebbe arrivare alle 20, sarà presentato quindi dal governo e vi sarà il conseguente ricorso alla fiducia. Tra le ultime novità nel testo ricordo l'election day a maggio per regioni e comuni, stop all'aumento della Tasi anche nel 2015 e poi un ordine del giorno che impegnerebbe il governo a prorogare fino a febbraio 2015 la sospensione dei pagamenti per gli alluvionati. È tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, come sapete di questa vicenda degli alluvionati ci siamo occupati e speriamo che nel maxi emendamento del governo entri anche questa proroga. Come si diceva, il Presidente della Repubblica è intenzionato a lasciare allo scadere della fine del semestre europeo a guida italiana. Oggi tra l'altro inizia l'ultimo Consiglio europeo sotto la presidenza italiana e c'è a Bruxelles il nostro Sergio Nava. Sergio, buongiorno, sotto che auspici e con quale ordine del giorno si apre questo Consiglio? Sì, buongiorno da Bruxelles, al via dunque tra due ore il primo vertice dell'era Tusk-Juncker, nonché come dicevi l'ultimo e conclusivo della presidenza di turno italiana. Due i temi forti sul piatto, il piano per la crescita e gli investimenti e la crisi ucraina. Sul primo punto è scontato il via libera del leader, restano però da chiarire due questioni fondamentali. Quanti margini ci saranno per scorporare dal calcolo del deficit anche gli investimenti sui progetti nazionali legati ai fondi strutturali, così come chiede l'Italia, pur sapendo che al momento la richiesta è osteggiata da Berlino. Ma soprattutto andrà chiarito quanto gli Stati membri intendono mettere sul piatto del futuro fondo strategico da 315 miliardi. Juncker ieri è stato esplicito nel chiedere ai governi di mettere mano al portafoglio, ma il problema resta sempre lo stesso, il timore dei Paesi membri di mettere soldi in un salvadanaio comune e vederne tornare indietro solo una piccola parte. Al momento infatti la lista dei progetti presentati conta 2.000 piani per 1.300 miliardi di investimenti potenziali. Altro tema in agenda, la crisi ucraina e i rapporti con la Russia, menù della cena serale, i 28 discuteranno soprattutto la linea linea da prendere a metà del prossimo anno verso Mosca, anche alla luce delle attuali turbulenze economiche, quando le sanzioni europee arriveranno a scadenza. Pre-vertice assolutamente impegnato per il Premier Matteo Renzi, da poco arrivato a Bruxelles, per lui un convegno sul commercio transatlantico, poi un discorso all'Italian Innovation Day, a chiudere il summit del Partito Socialista Europeo, infine alle 15 il via ai lavori del Consiglio Europeo. Da Bruxelles è tutto. Grazie al nostro Sergio Nava, che già accennava all'altra questione di queste ore, che è la Russia. Oggi la lunga conferenza stampa del presidente Putin, che risponde a un giornalista e dice: non temo colpi di palazzo, il sostegno dell'anima e del cuore dei cittadini russi. Il tema naturalmente sullo sfondo, ma nemmeno troppo, resta quello del crollo del rublo. Vogliono incatenare l'orso russo. Così il presidente russo Vladimir Putin, davanti a più di 1200 giornalisti accreditati per l'annuale conferenza stampa, spiega la drammatica crisi valutaria che sta vivendo il paese, le tensioni con l'Occidente. La crisi è provocata, secondo Putin, da elementi esterni. Nonostante la disponibilità, dice, da parte della Russia di lavorare insieme, si costruiscono nuovi muri. L'espansione della NATO è uno di questi. È possibile che il prezzo del petrolio scenda ancora, ha continuato Putin, ma la nostra economia uscirà dalla situazione attuale, al massimo in 2 anni, ha assicurato. La Russia ha riserve di denaro sufficienti, il rublo si riprenderà, ha detto Putin, che ha sostenuto che la banca centrale sta assumendo misure adeguate. Infine, sulla questione della Crimea, la crisi economica, ha detto Putin, non è il prezzo che stiamo pagando per la Crimea, ma lo stiamo pagando per il mantenimento dell'unità del nostro paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'altro fatto di politica internazionale importante di queste ore è l'apertura, come sapete, del presidente americano Obama a Cuba, l'accordo per il quale sono stati liberati prigionieri da una parte e dall'altra, e il fatto che gli Stati Uniti apriranno un'ambasciata a L'Avana, un accordo sul quale il Vaticano ha lavorato moltissimo in realtà, non da oggi. L'atto finale è aspettato a Bergoglio, ma fu Wojtyla per primo a muoversi, seguito da Ratzinger. Katia Caramelli ha intervistato Joachim Navarro Valls, che fu portavoce di Giovanni Paolo II. Secondo, prese parte direttamente agli incontri, confrontandosi lui direttamente da solo con Castro. Sentiamo il racconto. Il giorno che il Papa arrivava a L'Avana, che era a gennaio del 98, è cominciato quel viaggio che si può qualificare storico, non c'è dubbio. Qual è il ricordo più significativo che lei ha di quel viaggio? Ci sono tanti, puoi immaginare. Intanto qualcuno prima del viaggio, mi ricordo, in una conversazione personale, privata, da soli, completamente da soli, senza segretari, niente, con Castro, una delle cose che le ho chiesto era, prima della visita del Papa, che lui restaurasse nel calendario di Cuba la festa del Natale, che era stata cancellata dagli anni 60. No? Dopo un po' di conversazione lui mi ha detto: guardi, lo facciamo quest'anno per la visita del Papa. Io gli ho risposto: presidente, vediamo, facciamolo per quest'anno e poi vediamo. Da quella data, in realtà, il Natale è diventato festivo, giorno festivo nel calendario di Cuba. Sembra quasi una cosa piccola, ma è molto significativa. Poi le prime parole del Papa arrivando all'aeroporto di L'Avana, che oggi, dopo quello che è successo ieri, acquisiscono un significato particolare. Testualmente il Papa disse lì che Cuba si apra al mondo e che il mondo si apra a Cuba. Era un modo molto esplicito di dire ai cubani: dovete aprirci al mondo, cioè stabilire rapporti con tutte le nazioni, compreso gli Stati Uniti, e anche agli altri paesi, compresi gli Stati Uniti, dovete avere dei rapporti con Cuba. Quindi quelle parole in quell'anno sono quelle che oggi storicamente stiamo vedendo che si sono compiute. E poi c'è stato un proseguire del lavoro di mediazione del Vaticano, no? Anche poi col viaggio successivo di Benedetto, e adesso c'è stata la svolta con il ruolo decisivo di Francesco. Quanto ha pesato la provenienza di questo Papa? Io penso che questo ha pesato, senza dubbio, ma non scordiamoci che questo è, per dire così, la fine di un percorso lungo che era cominciato allora, no? E naturalmente l'intervista a Joaquim Navarro Valls la trovate anche sul nostro sito www.radio24.it. di questi temi, dei temi internazionali, tanto delle vicende della Russia, della conferenza stampa di Putin, quanto della vicenda di Cuba, torneremo a parlare tra poco nella seconda parte della trasmissione. Andiamo alla cronaca italiana per una vicenda che in parte incrocia l'inchiesta su Mafia Capitale, ed è l'omicidio di Fanella, l'ex cassiere di Gennaro Mokbel. Ci sono stati nuovi arresti. Sono tutte legate agli ambienti dell'estrema destra romana, le cinque persone arrestate oggi con l'accusa di essere coinvolte nell'omicidio di Silvio Fanella. Considerato l'ex cassiere di Gennaro Mokbel, il faccendiere condannato per la truffa Telecom Sparkle, l'uomo era stato ucciso a luglio nella sua abitazione alla Camilluccia durante un tentativo di sequestro finito male. In manette stamattina sono finiti l'ex NAR Manuele Macchi di Cellere, Manlio Denaro, già coinvolto nelle indagini sulla truffa, e poi Gabriele Donnini, Carlo Italo Casoli e Claudia Casoli, l'unica per la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sono tutti indagati per omicidio e sequestro di persona. Nei mesi scorsi la polizia aveva già arrestato i presunti esecutori materiali dell'omicidio. Secondo gli inquirenti sarebbe stato Manlio Denaro ad organizzare il tentativo di sequestro con l'obiettivo di mettere le mani sul tesoretto fatto sparire da Mokbel. La vicenda si intreccia anche con l'inchiesta su Mafia Capitale. Denaro era solito parlare dalla stessa cabina telefonica utilizzata anche da Massimo Carminati. Nell'ordinanza di arresto si fa anche riferimento ad un'intercettazione nella quale lo stesso Carminati e Raffaele Brugia avrebbero parlato di un debito che l'uomo aveva contratto con Mokbel e che per i due sarebbe il movente dell'omicidio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla morte di Virnalisi, Marta Cagnola. Non si era mai ripresa dalla scomparsa del marito Franco Pesci l'anno scorso. Era stato questo grande amore durato 53 anni a segnare la vita di Virnalisi, forse ancora più della sua carriera cinematografica, una carriera da 6 nastri d'argento e 2 David di Donatello. Proprio per amore aveva rinunciato a Hollywood, dove tutti la volevano. Inizia appena adolescente a muovere i primi passi nel mondo del cinema, i film strappalacrime, poi le commedie e poi il grandissimo successo del Carosello di un dentifricio. Ho detto qualcosa che non va? Clorodont? Sì, Clorodont. Poi la scoperta in Francia e nella seconda metà degli anni 60 prova a trasferirsi col marito e il figlio Corrado a Los Angeles. Il suo primo film, Come uccidere vostra moglie, con Jack Lemmon. Rifiuta Barbarella, rifiuta la copertina di Playboy, torna in Italia. Nel 1977 per Al di là del bene e del male vince il primo nastro d'argento come miglior attrice non protagonista. Nel 1980 il primo David di Donatello per La Cicala, nel 94 la regina Margot di Patrice Chéreau, per la quale viene premiata a Cannes. Comincia a dedicarsi anche a miniserie televisive di enorme successo e poi nel 2009 il premio alla carriera ai David di Donatello. Sono felice perché è come se fosse una laurea, e io una laurea non ho mai avuta nella vita, perché non ho mai studiato, perché ho iniziato a lavorare a 15 anni, per cui non ho mai, e questa è una cosa particolare, un premio particolare che veramente mi ha riempito di gioia. Grazie alla nostra Marta Cagnola per questo racconto. E noi adesso parliamo di musica e di arte, in una vicenda un po' strana che si incrocia, sentite. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni del... Cosa succede? Succede che inaugura oggi a Roma Zero, la prima grande retrospettiva su Renato Zero, un viaggio tra arte e vita di uno degli artisti più originali e provocatori, come sapete, attraverso documenti, immagini, musica, costumi e cimeli. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Macro, il Museo d'Arte Contemporanea di Roma, e ripercorre in controluce, per così dire, gli ultimi 40 anni del nostro paese. Renato Zero è un testimone assoluto del nostro tempo, dice il direttore artistico Vincenzo Incenso, lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Sicuramente sicuramente il visitatore non si troverà davanti a un reliquiario, un'esposizione di reperti, di gadget, ma farà un vero e proprio viaggio attraverso quattro decenni di storia di questo artista, ma soprattutto vorrei dire di storia del nostro paese, perché quello che secondo me mancava di riconoscere a Renato Zero era proprio questo valore di testimone straordinario del nostro tempo. Oltre che essere l'artista che tutti noi abbiamo conosciuto e apprezzato, è stato con tanti anni d'anticipo un testimone assolutamente ispirato, perché ha letto proprio nella filigrana del tempo e con grande anticipo sugli altri i cambiamenti di costume, di linguaggio, di senso del pudore. Parliamo di un artista che ha sdoganato 40 anni fa temi come la pedofilia, l'eugenetica, il controllo delle menti, il potere mediatico, l'omosessualità. Insomma, ci troviamo di fronte a un, oltre che a un cantante, anche a un grande osservatore, e questo la mostra soprattutto vuole raccontare. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Napolitano ribadisce: la fine del mio mandato è imminente. Putin all'attacco, vogliono impagliare l'orso russo e l'espansione della NATO è un nuovo muro. È crollato il muro di Cuba con il contributo determinante del Vaticano, torneremo a parlarne tra poco. È morta a 78 anni una grande attrice italiana, scompare Virna Lisi. Buongiorno ad Andrea Accomazzo e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi. È il direttore di volo della sonda Rosetta, è quella che è stata messa in orbita intorno ad una cometa, insomma, un mestiere non propriamente facile, per così dire. No, immaginate voi di dover mettere in orbita un oggetto su una cometa, quindi su un oggetto in movimento a grandissima velocità e a grandissima distanza dalla Terra. È stato premiato per questo, oltre che dal successo dell'operazione, naturalmente dal fatto che Nature ieri ha deciso di includerlo tra le 10 personalità scientifiche dell'anno. Immagino che sia contento, no, Accomazzo? Beh sì, sicuramente è un motivo di orgoglio estremo, di soddisfazione, parte anche di imbarazzo per essere stato nominato così personalmente, quando ovviamente alle spalle c'è un team di persone, di colleghi che hanno lavorato per anni per ottenere un successo del genere, però è sicuramente una soddisfazione per tutti. Ci avete messo 20 anni a progettare questa missione, Accomazzo? Sì, la missione è stata concepita addirittura negli anni 80, quindi a metà degli anni 80, 30 anni fa, 10 anni dopo si è cominciato lo sviluppo fisico del satellite e della missione, altri 10 anni sono passati per arrivare al lancio nel 2004, 10 anni di volo per 2 anni di operazioni in prossimità della cometa che sono stati già e saranno fantastici ancora, quindi è un tempo molto lungo ma con dei risultati eccezionali. Eh già, perché la sonda ha depositato un modulo sopra questa cometa, no? Questo file del quale al momento mi sembra abbiate perso le tracce, ma non siete particolarmente preoccupati. Esatto, uno degli strumenti della missione Rosetta era File, che è atterrato sulla superficie della cometa, ha condotto le operazioni previste per i suoi 3 giorni iniziali di funzionamento, dove funzionava con delle batterie. Adesso si trova in una zona della cometa non illuminata dal sole, come se fosse finito al polo nord durante l'inverno, quindi c'è poco sole e non è sufficiente per ricaricare le batterie attraverso i piccoli pannelli solari che ha, quindi speriamo fra qualche mese di poterlo riattivare. Quando? Ma pensiamo verso giugno o luglio, quindi ci vuole ancora qualche mese. Qualche mese, verso sì, giugno o luglio lo dovreste riattivare. Per l'estate, esatto. Mi spiega cosa fa il direttore di volo di un oggetto di quel genere? Beh, ci sono fasi diverse, una fase è quella di preparazione o diciamo di background, di lavoro, che si tratta di preparare tutti i team per affrontare delle operazioni del genere e definire piani di operazioni, quindi il direttore di volo coordina il lavoro di diversi team, dagli scienziati ai tecnici della dinamica del volo che calcolano le traiettorie e le orbite, agli ingegneri specialisti del funzionamento del satellite vero e proprio. Durante le operazioni, quando si conducono le operazioni, il direttore di volo è un po' come il capitano della nave o il pilota di un aereo che ha la responsabilità ultima per le decisioni di bordo, diciamo così. Quindi si tratta di tenere i team uniti sotto controllo e fare in modo che si parlino A dovere. Certo, un'ultima cosa, perché così lo chiariamo ai nostri ascoltatori. È un'operazione complicatissima, cioè non è come mandare per quanto complesso naturalmente, non è come mandare un lander sulla Luna o su Marte. Appunto, qua si parla di un oggetto in movimento che si muove a grandissima velocità e voi siete riusciti a mettergli in orbita intorno un oggetto e a farcene atterrare un altro. Sì, sicuramente l'operazione dal punto di vista dinamica del volo è molto più complicata rispetto a arrivare a Marte o alla Luna. Anche Marte e la Luna si muovono ad alta velocità, ma sono dei corpi molto più grossi di cui conosciamo tutte le proprietà. La cometa era un corpo completamente diverso, molto piccolo, molto attivo, con questi gas che vengono emessi che disturbano la traiettoria, l'orbita di Rosetta, e sconosciuto soprattutto. Abbiamo prima dovuto caratterizzarlo per poterci volare intorno, e questa è stata forse la cosa più macroscopica, più grossa, più difficile del nostro lavoro. Grazie per essere stato con noi, ad Andrea Comazzo, direttore di volo della sonda Rosetta, appunto tra le 10 personalità scientifiche dell'anno secondo la prestigiosa rivista Nature. Torneremo a sentirla magari nei prossimi mesi per sapere come vanno le cose. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, bentornato e buongiorno. Buongiorno a voi. Con lei per parlare innanzitutto di quello che è successo ieri, di qualcosa che forse era nell'aria naturalmente, del quale si parlava da molto tempo, che però è arrivato a conclusione, per così dire, ossia l'apertura reciproca in realtà tra Stati Uniti e Cuba. Che giudizio dà da un punto di vista di lettura di politica internazionale di questi fatti? Reset, cioè revisione di politica internazionale che ha fatto Obama in questi anni, e aveva promesso alla candidatura di cambiare molto in politica estera, non ha potuto, non ha saputo cambiare molto. Qui c'è davvero una revisione, si chiude un capitolo fallimentare e costoso, si chiude un capitolo divisivo in America Latina che creava anti-americanismo, e si chiude oltretutto un capitolo incoerente, perché c'erano le sanzioni a Cuba, ma c'era un rapporto con paesi comunisti come la Cina e il Vietnam con cui l'America fa affari tranquillamente da tempo. Quindi è sicuramente un punto di svolta, come diceva giustamente, parlato da tempo, che però è giunto a compimento, come sappiamo, anche grazie all'intervento del Vaticano. Magri, tra l'altro abbiamo sentito poco fa una bella intervista a Joaquim Navarro-Valls proprio su questo, perché tutto è iniziato in realtà appunto con Wojtyla, è stato un processo lungo questo, insomma adesso si celebra il ruolo di Bergoglio, ma in realtà il Vaticano ha perseguito questo obiettivo da lungo tempo, da tre papati possiamo dire. Senta Magri, quanto conta anche il fatto che le relazioni anche tra Cuba e la Cina si fossero intensificate negli ultimi anni, e quindi forse gli Stati Uniti potessero ritenere anche strategico riaprire le relazioni diplomatiche per non cedere il paese appunto a Pechino? Sicuramente anche questo conta, forse anche di più il fatto che il salvagente di Cuba in questi anni, il Venezuela, è in questo momento in difficoltà, e non è detto che Maduro, se le cose continuassero come stanno andando ora in Venezuela, possa essere in grado di continuare a sostenere economicamente Cuba. Quindi gli americani guardavano in qualche modo il timore cinese, ma i cubani guardavano il timore venezuelano. Questi sono fattori di contesto che hanno sicuramente inciso fortemente. E anche il Papa latinoamericano, perché è vero, lo dicevo poco fa, che il processo è iniziato da molto tempo, ma un Papa latinoamericano con un segretario di Stato che è stato nunzio in Venezuela e che quindi di Cuba si è occupato, con un segretario di Stato americano cattolico, insomma, sono tutti fattori che sicuramente hanno agito. Naturalmente, lei citava il Venezuela, noi ce ne siamo occupati forse troppo poco in questo periodo, citando soprattutto i problemi della Russia e degli Stati Uniti a fronte del calo del prezzo del greggio, ma evidentemente il Venezuela è in fortissima difficoltà proprio a causa del prezzo del greggio, ormai sotto i $60 al barile, un paese fortemente in sofferenza, magari torneremo ad occuparcene. Sono peggiori addirittura della Russia, sono peggiori, perché il break-even della produzione di petrolio in Venezuela è più alto di quello russo. Il petrolio costa di più per essere prodotto, quindi venderlo a $60 crea qualche problema. È un paese che non ha le riserve della Russia. Oggi Putin ci ha ricordato che lì comunque ha ancora 400 miliardi di riserve. Certo, assolutamente. E paese che tra l'altro ha una maggiore dipendenza dal petrolio rispetto alla Russia stessa, che pur ce l'ha forte. Senta Magri, un'ultima domanda. Per un muro che cade, quello tra Cuba e gli Stati Uniti, sembra che si eriga un nuovo muro, no? Perché oggi lo dice abbastanza chiaramente Vladimir Putin, che in questo questa fase si sente sotto attacco, dice l'espansione della NATO a est è un nuovo muro. Sono più chiacchiere, per così dire, dichiarazioni bellicose secondo lei, o c'è qualcosa veramente sotto in questo nuovo scontro tra l'Occidente e la Russia? Putin e i russi sostengono da sempre che l'espansione della NATO è un muro ed è una provocazione. In questo momento questo tema viene sollevato molto fortemente perché Putin deve far digerire ai russi che lo hanno votato, e soprattutto l'hanno votato quelli che hanno beneficiato della crescita di questi anni, che c'è una crisi in questo momento, ammette che la crisi dipende anche dalla non diversificazione, dalla troppa dipendenza dal petrolio, ma tende, come si fa sempre in questi casi, a cercare sull'esterno la responsabilità della crisi, cercando di creare una solidarietà interna. Non parlerò di muri, parlerei di muretti. Abbiamo due muretti: il muretto delle sanzioni, che non impedisce il rapporto con la Russia, ma qualche rapporto, e un muretto politico, perché ci sono dialoghi interrotti, ma ci sono dialoghi come ad esempio sull'Iran, dove le varie potenze del mondo stanno ancora lavorando assieme. Quindi due muretti senz'altro. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, come sempre, anche per la chiarezza. Noi adesso ci occupiamo di italiani ed internet, perché oggi sono stati diffusi dei dati dell'Istat. Sentiamo. Il 64% delle famiglie italiane ha un accesso ad internet. Il numero aumenta rispetto al 2013, ma in Europa siamo tra gli ultimi, davanti solo a Bulgaria e Romania. Ci sono infatti ancora quasi 22 milioni di persone, pari al 38% della popolazione, che non hanno mai utilizzato internet. Un quarto di queste giudica il web poco utile, e questo, assieme alla diffusione dell'infrastruttura d'accesso spesso inadeguata, è uno dei problemi più gravi per la digitalizzazione del paese. Le famiglie con almeno un minorenne sono quelle dove è più probabile trovare un computer, ce lo hanno l'87%. Fra gli strumenti più diffusi vince sempre il cellulare, presente nel 93,6% delle famiglie italiane. Metà hanno una macchina fotografica digitale o un lettore DVD Blu-ray, meno di un terzo un'antenna parabolica, e potrebbe sorprendere che solo il 27% delle famiglie ha un lettore MP3 o il 19% una console per videogiochi. Enrico Pagliarini, Radio 24 e Le Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. 7.30 precompilato verso il via. Arriva notizia, è arrivata pochi istanti fa, della prima convocazione dell'Agenzia delle Entrate per CAF e categorie. Sono state illustrate le novità su sanzioni e assistenza, appunto, per la nuova dichiarazione. È morta a 78 anni una grande attrice italiana, è scomparsa Virna Lisi, Palma d'Oro a Cannes, Due David di Donatello, recitò anche ad Hollywood e tornò in Italia dopo aver rifiutato il ruolo di Barbarella. Napolitano ribadisce: la fine del mio mandato è imminente. Sulla legge di stabilità in arrivo un maxi emendamento del governo verso il rinvio, tra l'altro, del pagamento dei tributi per gli alluvionati. Putin all'attacco, vogliono impagliare l'orso russo e l'espansione della NATO. È un nuovo muro. La borsa. Borse in diretta. Vanno bene le cose sui mercati oggi: più 2,05% per il FTSE MIB, più 2,04% per il FTSE All Share, positive anche le altre piazze finanziarie europee, che anzi vanno meglio: più 2,71% Parigi, più 2,18% Francoforte, Londra più 1,06%. Isabella Tasso, Radio Cori, Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Come mai sono positive le borse oggi? Sono tutte toniche, questo dopo la posizione attendista comunicata ieri dalla Riserva Federale statunitense in materia di politica monetaria. Sfruttando la scia di Wall Street, stanno registrando un flusso di acquisti generalizzati tutte le borse europee, e a sostegno dei listini c'è anche un rimbalzo del prezzo del petrolio, non è molto, ma è un più 3% a $58 a barile, sostiene i titoli petroliferi. A Milano Leni guadagna un 3%. Senti Isabella, dal lato del mercato valutario mi sembra che le cose siano lievemente più tranquille, insomma un lieve indebolimento di nuovo del rublo, però non si vede quello che abbiamo visto tre giorni fa. No, il rublo si sta consolidando sulle posizioni precedenti al grosso tracollo che c'è stato due giorni fa, scambia a 75 rubli per un euro, 62 per un dollaro. Intanto la borsa di Mosca fa un più 5%. Nel suo discorso Putin ha tentato di sdrammatizzare la situazione della crisi, dicendo che può durare al massimo fino al 2017. Comunque i mercati per il momento si stanno leggermente stabilizzando. Grazie Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, un po' più chiari sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura prima della borsa, che riguarda il fisco, il 730 precompilato che è in rampa di lancio. L'Agenzia delle Entrate ha concluso la prima fase di predisposizione delle procedure per l'acquisizione dei dati e oggi appunto ha presentato a un centinaio di rappresentanti delle diverse categorie di contribuenti, CAF e professionisti, le novità su sanzioni e assistenza per la nuova dichiarazione. Saluto Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, oggi presentate il rapporto Pendolaria 2014, un tradizionale rapporto nel quale raccontate un po' come vanno le cose per, tra l'altro, alcune delle categorie che sono al nostro ascolto, ossia i pendolari. Che quadro ne emerge complessivamente? Quello di un'Italia sempre più a due velocità per quanto riguarda i treni, cioè da un lato il successo dei treni ad alta velocità che sempre di più aumentano tra Roma, Milano, Venezia, e il taglio invece degli intercity che sono diminuiti del 20% in soli 3 anni, e poi delle regioni in cui sono spariti ormai un treno ogni 5, pensiamo alla Calabria, alla Campania, all'Abruzzo, e altre invece in cui se si investe sui treni, parliamo per esempio della provincia di Bolzano ma anche della Toscana, i pendolari crescono sui treni perché appunto quando si mette un treno nuovo viene sempre riempito di persone. Ci aiuti con una classifica, ci dica chi sta messo meglio e chi sta messo peggio. Di sicuro quelli che stanno messi meglio sono la provincia di Bolzano, la Toscana, e in qualche caso appunto anche l'Emilia Romagna e la Puglia. Perché? Perché ci sono dei treni nuovi, non è stato tagliato il servizio, in provincia di Bolzano addirittura è stato aumentato il servizio e è triplicato il numero di persone che ogni giorno prende il treno. Purtroppo i casi peggiori sono quelli delle grandi città dove è stato tagliato il servizio in alcuni casi e i pendolari sono rimasti quelli e magari alcune linee di Roma e di Milano hanno fino a 80.000, 100.000 persone al giorno che trovano i soliti vecchi treni. È chiaro che se non si investe per mettere più treni, comprare treni nuovi, fare anche investimenti infrastrutturali, questa situazione non cambierà e stiamo parlando di 3 milioni di persone al giorno che prendono il treno. Grazie Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, le auguro una buona giornata. Saluto Laura Scesi che è docente di geologia tecnica al Politecnico di Milano. Buongiorno, e benvenuta. L'abbiamo chiamata in diretta perché ieri a Milano appunto è successo che molti cittadini milanesi questa situazione la conoscono perché la vedono quotidianamente nei loro garage, nelle loro cantine, è successo che le pompe della metro 3 hanno smesso di funzionare e non sono più riuscite a tirar via l'acqua della falda di Milano che continua a salire. Morale, la metropolitana che porta, lo dico per i non milanesi, fino alla stazione centrale, e quindi è una metropolitana importante in una città come questa, non ha funzionato sostanzialmente per tutta la mattina. Vogliamo allargare il discorso con lei perché questo problema della falda ci sembra un problema strutturale di questa città, ed è la città che si appresta, come ben sapete tutti, ad ospitare Expo a partire dal maggio del 2015 e insomma vorremmo che tutto funzionasse nella maniera migliore. Ci spiega che cosa succede? Allora, il problema della falda non è un problema, nel senso che la falda c'è sempre stata e la falda a Milano è una falda superficiale, quindi noi la falda a Milano è sempre stata molto superficiale. C'è stato un periodo a partire dagli anni 60, cioè dal boom economico, quando si sono messe in funzione le grandi fabbriche situate nella cintura soprattutto a nord di Milano che hanno cominciato a pompare moltissima acqua, quindi la falda acquifera si è abbassata. Quando queste fabbriche si sono chiuse, la falda acquifera ha ricominciato a salire esattamente portandosi ai livelli di un tempo e quindi la falda acquifera è a profondità molto limitate, quindi la prima falda ovviamente, non quella utilizzata per scopi idropotabili. E quindi noi ce la ritroviamo, quindi dobbiamo imparare a convivere con questa falda che si trova a pochissimi metri di profondità. Senta, ma quello di ieri. Sì, prego. No, dico, quello di ieri, il problema è che tutte le opere necessitano di pompe. Chi ha costruito i garage in maniera non corretta, i garage sotterranei a tre piani sotto il piano campagna, è chiaro che i piani più profondi sono interessati, se non vengono impermeabilizzati correttamente, sono interessati dalle infiltrazioni dell'acqua, e quindi ci vogliono delle pompe per abbassare la superficie piezometrica. E quello che è successo ieri è che alcune pompe, non tutte, sì, perché ce ne sono tantissime, e alcune pompe non hanno funzionato, perché siccome sono in funzione, penso, suppongo 365 giorni all'anno, quindi è probabile che qualcuno qualche volta si rompa. C'è una fragilità di fondo, c'è una fragilità di fondo di questa città che appunto si prepara ad ospitare Expo e che accoglierà presumibilmente milioni di persone da questo punto di vista. L'unica cosa è conoscere il problema, se si conosce il problema si riesce poi a trovare i rimedi opportuni, quindi no, non c'è una fragilità di fondo, è una città anzi che ha tanta acqua e forse anche una cosa positiva. È anche una cosa positiva. Senta, lei sa se ci sono altre città italiane nella stessa condizione? No, Milano è un po' unica perché, come lei vede, non è simile, che ne so io, a Roma, Parigi e Londra con il Tevere, la Senna, il Tamigi, tutte queste cose qua. È una città che non ha un grande fiume che passa in mezzo, però di fatto è una città con moltissima acqua perché siamo proprio nel cuore della pianura, materiali molto permeabili, quindi tutta l'acqua che scende dalle prealpi, dalle Alpi, Alpi, prealpi, Lombarde, eccetera, arriva più o meno qui, e quindi perché si deve raccordare poi con l'asse drenante che è il Po, e quindi noi siamo in questa situazione, abbiamo questa grande disponibilità di acqua. Grazie Laura Scesi, docente di geologia tecnica al Politecnico di Milano, e chiediamo rispondiamo a Daniel, un ascoltatore, ci dice: ma siete sicuri che l'hanno chiusa per quello la metro? Io ho sentito per una persona che si è tolta la vita. No, non è così, l'hanno chiusa esattamente per quello, se no non sarebbe tra l'altro rimasta chiusa per 5 ore se una persona si fosse tolta la vita. Adesso parliamo di una sentenza della Corte di Giustizia Europea che farà molto discutere, sentiamo. La Corte di Giustizia Europea torna sulle sue decisioni e stabilisce che un ovulo umano, manipolato ma non fecondato, possa essere brevettato a fini industriali. In sostanza vuol dire che un organismo che non è in grado di svilupparsi in essere umano non va considerato embrione, quindi può essere utilizzato a fini industriali o commerciali e in linea di principio può essere brevettabile. Sviluppati in laboratorio, questi ovuli possono essere usati a scopo di ricerca, sperimentazione, per lo studio di malattie, possono essere comprati e venduti. Nel 2011 la Corte aveva deciso diversamente. Aveva stabilito che la nozione di embrione umano comprendeva anche ovuli non fecondati, perché gli ovuli avevano in sé le caratteristiche per dare l'avvio al processo di sviluppo dell'essere umano. Chiamata però dall'Alta Corte di Giustizia del Regno Unito a stabilire se tutti gli ovuli siano in grado di determinare un processo di sviluppo di essere umano, la Corte europea ha chiarito che questo non necessariamente avviene in tutti i casi. Quando si può dimostrare che da un ovulo non può derivare un essere umano, allora l'uso di tale ovulo è brevettabile. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di sentire cosa succede sulle strade, parliamo di una mostra, 150 opere che arrivano nel Salone delle Scuderie del Palazzo della Pilotta a Parma dal 21 dicembre al 29 marzo, con grandi artisti contemporanei come Mimmo Paladino, Luca Pignatelli, Emilio Isgro, Gianluigi Collin. Per parlare di quale stata e cosa resta della lezione di Alberto Burri, che rivoluzionò nell'immediato dopoguerra la materia e la struttura dell'opera d'arte. Il curatore Arturo Carlo Quintavalle, al microfono di Adriana Fracchia. Progressivamente Burri è stato identificato come il pittore della materia, ma dentro questa materia c'è sempre una forte struttura. Lo aveva già detto Argan, che c'era la sezione aurea nelle opere di Burri, ma c'è anche nel periodo in cui lui è assolutamente informale, per cui la mostra segue da una parte il filo della materia, dall'altra il percorso dell'astrazione. Qual è l'importanza e il peso di Burri ancora oggi? Ma tantissimo, guardi, l'eredità di Burri credo che sia proprio questo discorso, materia e struttura. Da una parte l'organizzazione del quadro